La soglia della casa di Dio 23:4. Mi piace leggere la Bibbia, considerandola sia nel suo contesto storico, sia come fonte di istruzione. Ma essa attira pure la mia attenzione come semplice credente. Dal contesto storico imparo tantissime cose riguardo al popolo di Israele e le comunità circonvicine. Essa è certamente istruttiva, perché è una raccolta di 66 libri che insegnano di tutto, mentre dal come credente sono attratto come i protagonisti, credenti nell'unico Dio, siano capaci di esprimere tante verità della vita e i loro sentimenti con immagini, che mi toccano profondamente. Quando leggo nell'omonimo e profondamente poetico libro, Giobbe affermare, mentre soffriva nel corpo, intanto questo mio corpo si disfa come legno tarlato, come un abito roso dal tarlo, 13 e 28, rimango affascinato dalla chiarezza dell'immagine cruda e reale della vita. Proprio per questo motivo, da vario tempo, sono rimasto profondamente toccato da una espressione citata in uno dei Salmi, esprimente il valore di stare alla presenza di Dio, cioè il Salmo 84. Un salmo a me molto noto, ma che ultimamente è un'immagine di una realtà della vita, ha il potere di dare vitalità nei luoghi deserti del mio cuore. L'espressione toccante è questa: un giorno nei tuoi cortili val più che mille altrove. Io preferirei stare sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nelle tende degli empi. Salmo 84:10. Ho voluto controllare una versione interlineare dell'ebraico, che si esprime così: poiché buono è un giorno nei tuoi atri, più di mille altri. Ho scelto di stare sulla soglia nella casa del mio Dio, più che abitare nelle tende della malvagità. In questa testimonianza-confessione il concetto che risalta è l'amore per la santità, non un desiderio tipicamente cattolico romano teso a ottenere qualcosa, ma quello del salmista è invece di compiere cose giuste secondo il volere di Dio per rimanergli gradito. Per questo usa le due immagini opposte, la casa di Dio e le tende degli empi, o, come dice la traduzione letterale, le tende della malvagità. La casa rende l'idea di qualcosa di stabile, di sicuro, mentre una tenda rende l'idea di qualcosa di mobile e insicuro. La casa di Dio è tutto quello che fai di buono, di vero, di utile e duraturo, mentre tutto ciò che compi di male, di falso, di inutile e passeggero rappresenta una tenda, con tutti i suoi limiti. Si può vivere in entrambi gli ambienti, è vero, ma la differenza è enorme. Quando qualcuno non conosce altro, una tenda va benissimo, ma per chi è abituato a vivere sempre in una casa, vivere sotto una tenda è veramente scomodo. La tenda rappresenta la malvagità, che per gli ebrei non è un concetto astratto, ma tangibile. Per questo è abbinata alle persone, cioè agli empi. Uno dei grandissimi problemi nel leggere la Bibbia è comprendere le parole nel loro significato originale, atteggiamento che molti credenti e studiosi della Bibbia sorvolano. In genere uno che ha posto fede in Dio tramite Gesù Cristo ritiene empio l'incredulo, che si comporta non da pio, e questa è una mezza verità. L'empio è veramente il non pio, colui che non si comporta religiosamente, cioè in modo misericordioso e giusto nel cospetto di Dio. Ma la fatale trappola nella quale cadono i credenti è ritenere sempre empio colui che è incredulo e si comporta sgradevolmente nei confronti di Dio. Perciò, quando il bravo credente legge certe espressioni come questa, realizza un vero distacco. C'è, è l'empio e ci sono io. Quando la Bibbia, cioè Dio, parla dell'empio, non si riferisce a me. Io sono un credente, mentre l'empio non lo è. Questo fatale errore porta i credenti a compiere oggi lo stesso errore di certi credenti di circa 3.000 anni fa, quando il profeta Osea disse: anche se scrivessi per lui le mie leggi a migliaia, sarebbero considerate come cosa che non lo concerne. Osea 8:12. Purtroppo, bisogna dire purtroppo, vi sono degli empi anche nell'ambito dei credenti, i quali oggi possiamo definire chiesa o sposa di Cristo. Mi rendo conto che questa valutazione fa arricciare il naso ad alcuni, ma certe verità non si possono nascondere. Innanzitutto l'invito di Cristo rivolto a certe chiese come quella di Laodicea di nuovo testamento orare per avere comunione dal momento che si riteneva non bisognosa, cioè pia, è ancora valido. Poi, la storia riporta storie incresciose di credenti, che si sono comportati peggio di empi. Come il caso del re credente, valoroso eppure empio, Saul, che fino alla morte ha perseguitato senza pietà il giovane scudiero Davide. Dobbiamo sfatare la romantica idea che una volta salvati, i credenti appartenenti ad una chiesa locale non abbiano più litigi, risse e contese. Già al tempo degli apostoli vi erano questi credenti e, dopo 2000 anni, il fiume della fede cristiana non si è certamente purificato lungo il tragitto dell'insanabile cuore malvagio umano. Se il salmista 3000 anni fa bramava gli atri o cortili della casa di Dio, cosa devo fare io? Se il salmista apprezzava di certo come migliore un solo giorno speso a compiere il bene, piuttosto che viverne 1000 in modo sbagliato, come posso io avere altri sentimenti? Se i cristiani di oggi sono animati da sentimenti diversi, cosa è cambiato lungo il fiume inquinato del cristianesimo? Si ama la santità a costo della propria vita, della propria salute o benessere, come era per i primi cristiani? Oppure si ama la santità ma anche la comodità e l'interesse personale? Come i credenti dell'antico patto, che amavano sì il loro Dio, ma anche le altre divinità. Per questa situazione così contorta, il salmista ha preso una grossa decisione. Ho scelto di stare sulla soglia, nella casa del mio Dio. Si dice giustamente che l'esistenza umana è una scelta. Tutta una scelta. Non puoi fare tutto e di tutto perché alla fine non fai niente. O cammini o stati fermo. O esci di casa o rimani in casa. O ti sposi o rimani celibe. Se decidi di rimanere celibe, non puoi vivere come uno sposato, cioè fare sesso e avere relazioni matrimoniali con una donna. Così è con la fede cristiana. Se vuoi essere un cristiano e vivere come tale, non puoi vivere come hai sempre vissuto. Come è scritto, le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate tutte nuove. Perciò, se prima il tuo cammino era caratterizzato dall'impietà, dall'ingiustizia, ora non deve essere più così. Uno che dice di essere un cristiano ha una vita nuova, se non è nuova, egli non è un cristiano. Il salmista lo aveva capito, anche se non in questi termini, e aveva preso una decisione, stare sulla soglia del suo Dio. E per questo non abitare nelle tende degli empi. Stare sulla soglia o all'ingresso della casa di Dio significa innanzitutto non essere proprio dentro, non godere le funzioni pubbliche. Tenendo l'immagine che la casa di Dio rappresenta la santità o la sua totale volontà, significa che il salmista preferisce fare ciò che è giusto, anche se non in modo totale. E la volontà di Dio che vada d'accordo con tutti, ma a volte non è possibile e avrò del continuo un disaccordo con alcuni. E, volontà di Dio che io faccia parte attivamente di una chiesa, ma è possibile che una chiesa non accetti il mio operato. Cosa fare? Lanciare accuse o condanne? Non è mio compito, ma è mio compito continuare a rimanere sulla soglia della casa di Dio, per quanto non totalmente. Così potrò avere dei rapporti difficili con alcuni, ma continuo ad amare e pregare per loro. Potrò non avere una parte attiva nella vita di chiesa, ma posso sempre dire parole buone e edificanti quando ho l'occasione di avere una certa relazione. Meglio rimanere all'ingresso della casa di Dio che comportarmi come si comportano gli empi. Certo, a tutti piace abitare nella casa di Dio, essere stimati, onorati, applauditi dalla maggioranza. Ma Dio non ha dato a tutti gli stessi compiti, né preordinato omogeneamente lo stesso stile di vita. Il re Davide ebbe una vita travagliata, mentre suo figlio Salomone trascorse un'esistenza pacifica. Molti profeti predicavano tranquillamente il loro messaggio, altri erano continuamente perseguitati e uccisi. Alcuni svolgevano il loro compito nella casa di Dio, altri all'ingresso. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, alla fine della sua vita fu gettato fuori dalla vigna. Nel volere a tutti i costi rimanere nella casa di Dio, a volte si è contro la precisa volontà di Dio, non dobbiamo comportarci come dei santi ritardati che mescolano la loro iniziativa religiosa preferita con la volontà di Dio, arrivando poi a credere che si tratti della stessa cosa. Perciò la tenda degli empi, cioè degli increduli e dei cristiani nominali, comporta un cammino fluido, senza ostacoli, senza tanti scossoni alla fede. Gli increduli hanno il loro tran-tran, mentre i religiosi si nutrono di forme riconosciute di adorazione, a prescindere da Cristo e a prescindere dalla salvezza che Egli offre. Essi vivono di esperienze religiose, che non sono affatto accettevoli a Dio. Non a caso Cristo Gesù dirà ai credenti che si giustificheranno davanti a Lui perché hanno predicato e fatto miracoli. Io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me voi tutti operatori di iniquità. Non credo assolutamente che Gesù si rifacesse a comportamenti profondamente indegni, come rubare, uccidere o fornicare, ma piuttosto che riprendesse severamente comportamenti religiosi privi di contenuto sostanziale. I cristiani del XXI secolo conoscono la Bibbia a memoria, ma non la potenza della vera conoscenza e dello Spirito Santo. Et ispitoras difficile anche per me. Dormire pacificamente la notte, sapendo che milioni di persone istruite e religiose stanno semplicemente portando avanti tradizioni di chiesa e costumi religiosi, ma non stanno affatto glorificando Dio. È angosciante sapere che certi riti religiosi, anche molto rumorosi, sono rivolti a demoni e non a Dio. 1 Corinzi 10:20. Come è stato detto, l'eresia del sammaritanesimo, la pratica di scegliere ciò che ci piace, adorare e rigettare ciò che non ci piace, mio è ampiamente diffusa. Queste sono le tende degli empi. Chi è nella casa di Dio spesso ha la tendenza a pensare che il cristianesimo sia un sistema indolore, per mezzo del quale possiamo sfuggire alla punizione dei peccati del passato e ritenere la salvezza, la liberazione da cose spiacevoli. Gli inni e i sermoni creano, per i frequentatori della casa di Dio, una religione di consolazione e di piacere. Sorvolano il luogo delle spine, della croce e il sangue. Per questo, a volte è bene e saggio stare sulla soglia della casa di Dio, perché esistono decise afflizioni consacrate, dispiaceri che possono essere comuni a tutti, ma che assumono un carattere speciale perché accettate con intelligenza e offerte a Dio in tenera sottomissione. Le giuste e sane abitudini del cuore producono salute spirituale, una salute che ci libera da tanta materia tossica come accettare la forma degenerata del cristianesimo, che passa come vera religione degli apostoli. E meglio servire Dio nella solitudine che servire il peccato con una moltitudine. E meglio stare sulla soglia della casa di Dio che stare con la sposa di Cristo. Mentre quest'ultima si permette di farsi corteggiare con successo dai figli del diavolo. La soglia della casa di Dio non è comoda né attraente, ma ciò di cui un uomo si interessa al punto di esserne assorbito decide e rivela che tipo di uomo è. Ancora una volta sono i fatti che valgono e non le parole.